La versione di Oscar Giannino. Cari ascoltatori di Radio 24, 16:32, primi 38 secondi. Il ritardo con cui ho registrato la mia voce era dovuto al fatto che stavo trafficando col computer perché non mi appariva la schermata dalla regia e quindi mi stavo adoperando. Comunque, buon pomeriggio, grazie di essere in ascolto in diretta o in podcast. Ricordo a tutti la versione di Oscar @radio24.it per proporre temi, ospiti, critiche. Io rispondo a tutti quelli a cui riesco. E vado subito all'argomento del giorno per dirvi di che cosa parliamo e sentire la vostra opinione. Se volete intervenire all'800240024, gli sms lo sapete, 349-238-6666. Parleremo con alcuni ospiti della questione toccata dalla sentenza della Corte Costituzionale di cui abbiamo appreso ieri e che avete trovato oggi sui giornali. Una sentenza che è tornata, come numerose volte ha fatto negli anni la Corte Costituzionale, sulla legge 40, quella sulla procreazione assistita, e che ne ha fatto cadere un altro pezzo. Progressivamente è una legge molto modificata dalle decisioni della Corte rispetto all'impianto, molto criticato e discusso anche da me, con cui uscì dal Parlamento. Questa volta la Corte Costituzionale apre, quindi ha accettato, ha accolto l'istanza di dubbio di costituzionalità che era stata avanzata relativa a un divieto che era nella legge 40, e questo divieto era quello degli accertamenti sul preimpianto degli embrioni nel caso di tecnica appunto di procreazione assistita per coppie che abbiano patologie che siano geneticamente trasmissibili. E quindi, mentre prima la legge vietava le diagnosi preimpianto, cioè in altre parole si conformava al fatto che se l'embrione impiantato era con una malattia geneticamente trasmessa da uno dei genitori non era possibile accertarlo prima, questa volta la legge cambia perché la Corte Costituzionale dice no, queste verifiche si possono fare e quindi in quel caso si può fare la selezione tra embrioni accertandosi nel caso, ripeto, di patologie geneticamente trasmissibili della coppia, dei genitori, che l'embrione sia sano. Ecco, io chiedo anche a voi se siete favorevoli o contrari. Io sono favorevole fin dal primo momento, ma questo conta poco. Avremo due ospiti che ci spiegano perché la sentenza ovviamente fa ancora discutere. Vedremo che la sentenza ha dei problemi applicativi, come sempre in Italia, perché una cosa è affermare un principio, altro che poi il sistema sanitario sia in grado di garantirne l'effettiva applicazione. E prima mi prendo un altro minuto proprio per leggervi una lettera che ci ha mandato un'ascoltatrice che ci ha scritto dal comune di Massarosa nella provincia di Lucca, ed è, io sono grato, si chiama Maria, perché mi ha fatto scoprire che la pubblica amministrazione italiana ha delle fantasie, per così dire, nelle denominazioni delle sue 100.000 specializzazioni e varie branche, che a volte sembrano uscite dalla penna di un romanziere. Perché mi ha mandato Maria, perché la leggessi, la lettera che ha ricevuto dal comune appunto in cui vive, il comune di Massarosa in provincia di Lucca, firmata da un dirigente di settore del comune di Massarosa, e il dirigente di settore appunto è responsabile di questo settore dell'amministrazione comunale denominato programmazione del vivere. E a me non era mai capitato di imbattermi in una denominazione della pubblica amministrazione degli enti locali o tantomeno centrale di questo tipo, la programmazione del vivere, che mi dà l'idea del Gosplan bolscevico, per cui lo Stato si occupa di tutto, cioè di programmare la vita di noi cittadini / sudditi. La cosa particolarmente più, se volete, divertente, ma insomma qui entriamo nel gogol, nel tragicomico per così dire, è che naturalmente la programmazione del vivere nel comune di Massarosa è il dirigente responsabile, che si chiama Monica Torti, è responsabile naturalmente dei servizi cimiteriali. In questo consisterebbe la programmazione del vivere. E la programmazione in che cosa consiste? Nel fatto che il dirigente responsabile della programmazione del vivere coscienziosamente, quindi esercitando il suo dovere, scrive con anni di anticipo ai cittadini del comune di Massarosa le tariffe, se vogliono essere seppelliti, del canone. E qui ci sono belle cifre, insomma, 4.290 euro per 50 anni oppure 8.580 euro per 99 anni a sua scelta, eccetera eccetera. Allora vi risparmio la lettura dei dettagli di questo messaggio, però io ringrazio Maria perché ci ha fatto scoprire che lo Stato dalla culla alla tomba, appunto, spaccia per programmazione del vivere, in realtà incassare in anticipo i soldi sulla nostra morte fa parte dei suoi doveri, per così dire. Però ecco, grazie di averci dato questa pillola. Nel frattempo gli sviluppi del giorno: la pubblica amministrazione italiana hanno la solita raffica di nuovi provvedimenti delle procure nei confronti di assenteisti. Oggi è il giorno di una notizia che approfondiremo domani mattina alle 8:15 con Alessandro Milan a Attenti a Noi Due nel 24 mattina, quindi alle 8:15 alle 9, perché vedrete sui giornali di domani che il GIP di Messina, la città in cui manca da due settimane l'acqua eccetera eccetera, si è inventato, e io gli batto le mani, un provvedimento che obbliga alla firma ex ante ed ex post 12 consiglieri comunali pizzicati dopo una lunga indagine perché mettevano in tasca un mucchio di soldi per commissioni consiliari che loro convocavano a raffica, ne abbiamo anche parlato, e che poi non si tenevano, di tutti i partiti, quasi tutti i partiti della verità. Non ci sono i 5 Stelle, ci sono PD, UDC, Lista Crocetta, NCD e così via. E quindi il GIP si è inventato questa misura cautelare per la quale dovranno tenersi da davvero le commissioni se le convocano, e loro dovranno firmare dai vigili urbani all'inizio e alla fine. 1.000.000 di euro si erano intascati, non stiamo parlando di poche migliaia di euro in una città, appunto, che non ha l'acqua, per capirci. E queste sono le cronache quotidiane della pubblica amministrazione italiana. Ma andiamo al nostro tema. La sentenza, come vi ho detto, da parte della Corte Costituzionale apre alla diagnosi preimpianto di embrioni per le coppie che hanno patologie genetiche trasmissibili, e quindi afferma il principio di piena costituzionalità del fatto, in quel caso, di poter scriminare tra gli embrioni al fine di garantirne la piena salute. L'inghippo sta nel fatto che queste patologie, quelle geneticamente trasmissibili, sono quelle già stabilite dalla legge 194, quelle sull'aborto, ma devono essere poi di fatto nel nostro ordinamento appurate da dei centri, dalle apposite strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, che però il legislatore non ha indicato. E quindi, come molte volte già capita in presenza di interventi della Corte Costituzionale sulla legge 40, con ogni probabilità da domani il principio è affermato, ma poi, in assenza di una precisa indicazione da parte del legislatore di quali siano questi centri del Servizio Sanitario Nazionale che devono individuare con chiarezza le patologie per le quali si può fare la diagnosi preimpianto, in assenza di queste non è affatto garantito il vostro diritto. Se avete patologie geneticamente trasmissibili come l'anemia cellule falciformi, la talassemia e così via, non è affatto detto che il Servizio Sanitario Nazionale sia in grado di garantirvi la piena applicazione di questo diritto. Allora, per parlare di questa sentenza abbiamo con noi Eugenia Roccella, che è deputata di Area Popolare e che è critica verso la sentenza. Grazie e buon pomeriggio di essere con noi. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. E il presidente della SIFES, che è la Società Italiana Fertilità e Sterilità Medicina della Riproduzione, dottor Andrea Borini. Buon pomeriggio, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Roccella, perché è contraria a questa sentenza della Corte Costituzionale? È critica, non voglio dire contraria. Perché per la prima volta, con questa sentenza in particolare, ma anche con la precedente, ma con questa con più chiarezza, si inserisce nel nostro ordinamento un principio che è un principio di stampo eugenista, non c'è niente da fare. Cioè la cultura eugenetica... Cioè lei dice di manipolazione artificiale della vita per preordinarne gli sviluppi? Sì, dico proprio di selezione di tipo eugenetica. Cioè l'eugenetica era, semplificando, questo era lo slogan, tu sì, tu no. Tu sei fit e tu sei unfit, o a vivere, quindi a nascere, o a procreare. Tu sei inadatto alla vita o inadatto alla procreazione, come era un tempo, visto che la diagnosi preimpianto, ovviamente, quando è nata l'eugenetica ancora non c'era, quindi si agiva più che altro sul diritto alla procreazione. E tu sei unfit, tu non sei adatto appunto né a vivere né a magari a procreare. Anche se qui non si tratta di sceglierne il genere, cioè il sesso, se sono biondi, se sono bruni, alti, magri, cioè, si tratta di garantirne naturalmente nella misura in cui è possibile farlo per questo tipo di patologie, il fatto che siano sani. Sì, questo fino a un certo punto, perché poi abbiamo visto quando è stata introdotta, quando è stato aperto attraverso un'altra sentenza alla fecondazione eterologa in Italia, si è visto che poi si tratta anche di una selezione che viene pudicamente chiamata fenotipica o in altro modo, ma è una selezione di caratteri sostanzialmente somatici. Ma è una, è da quello che questo io riguarda l'eterologa, non riguarda no, ovviamente però per l'eterologa e per spiegare a chi non ha di questi problemi, in quel caso è una cosa coperta dal totale riserbo dell'equipe medica, semplicemente perché non siano anormalmente diversi i tratti fenotipici della coppia su cui si fa l'eterologa rispetto a quelli della donatrice. Di questo si tratta, non di selezionare anche gli alti, biondi, magri, donne. Non è propriamente così, perché se noi andiamo a vedere come avviene la fecondazione eterologa, vediamo che per esempio si dispone di veri e propri book dei donatori, che ovviamente non vengono per tutelare l'anonimato dei donatori, dei cosiddetti donatori, perché sempre si tratta di compravendita, sì. Ma insomma per tutelare l'anonimato non si mettono le foto dei donatori. A volte si mettono le foto dei donatori da bambini, perché così si vede quanto sono carini, se, insomma, come si ha un'idea di come possono essere da grandi, e si danno una serie di informazioni, ma tantissime informazioni. E quindi lei dice e poi c'è un problema, quando si tratta per esempio dell'adozione c'è stata una sentenza per cui se io voglio scegliere il figlio, il colore della pelle, se lo voglio scegliere bianco anziché di colore, cioè la sentenza dice che non è possibile essere, esatto. Non si è adatti a essere genitori se si vuole scegliere. Ma infatti quindi per l'adozione non si può scegliere il colore della pelle, per esempio, per invece la fecondazione eterologa si può scegliere. Questo per esempio crea una differenza di trattamento, cioè io posso scegliere di non volere un figlio di colore se accedo alla fecondazione assistita, non lo posso fare se invece voglio essere genitore adottivo. E questo riguarda l'eterologa, non la decisione di ieri, no, però ha fatto bene a richiamarlo per dare il quadro complessivo della sua posizione. Ma qui stiamo parlando della salute però. Qui stiamo parlando della salute, ma stiamo parlando anche di introdurre nell'ordinamento italiano per la prima volta appunto un principio dichiaratamente eugenista, cioè tu sì, tu no, tu hai un diritto affievolito a nascere perché sei potenzialmente portatore di una patologia, disabile o quello che è, e tu invece hai un diritto pieno a nascere. C'è una toppa che hanno messo, un correttivo comunque che è stato messo dalla Corte, cioè il fatto che è stato detto esplicitamente invece che gli embrioni non si possono buttare perché non sono materiale biologico. Non sono materiale biologico, non si possono scartare, ma si possono selezionare. Questo per quello che riguarda la crioconservazione. No, e capisco, ha fatto bene anche a richiamare questo, quindi voglio dire, c'è nella scelta della Corte, cioè per così dire, io ci vedo il diritto alla tutela della salute del bambino rispetto a patologie che sono accertabili con un esame preimpianto. Lei dice no, questo significa affievolire il diritto alla vita di chi magari è portatore di quelle patologie, perché geneticamente le prende dai geni, però ha diritto a vivere anche lui, sia pure una vita che magari è meno, tra virgolette, piena di quella della piena salute, ma non meno degna. Ho capito bene? Ho sintetizzato bene? Sì, io conosco molte persone che sono, per esempio, che hanno una fibrosi cistica o hanno altre patologie, che vivono una vita piena, a volte benissimo, più felice di altri che invece sono. Allora, abbiamo sani. Capito il suo tipo di obiezione, che è un'obiezione insomma filosofica, è un'obiezione che ha, come tutti questi problemi naturalmente che sono su questa delicata frontiera, no? Adesso abbiamo un minuto di informazione sulla circolazione stradale e poi sentiamo l'opinione di Andrea Borini della Società Italiana Fertilità e Sterilità e Medicina della Riproduzione. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci, tornate in diretta alle 16:49 primi 27 secondi. Stiamo parlando della sentenza della Corte che legittima la diagnosi preimpianto degli embrioni nelle tecniche di fecondazione assistita per le coppie nelle quali ci siano patologie geneticamente trasmissibili, e quindi consente ciò che la legge 40 vietava, cioè la selezione degli embrioni prima dell'impianto per tutelare la salute poi del bambino. Abbiamo sentito Eugenia Roccella, parlamentare di Area Popolare, che dice: no, questa è eugenetica, quindi noi siamo contrari. Il diritto alla vita di un bambino anche malato, magari sarà un po' meno piena la sua vita, ma comunque ha pari dignità, e quindi non deve essere consentito l'intervento umano per impedire in questo modo il fatto che possa essere portatore a propria volta di una malattia geneticamente trasmissibile. Andrea Borini, presidente della Società Italiana Fertilità e Sterilità e Medicina della Riproduzione, eugenetica secondo lei? Assolutamente no, nel senso che bisogna intanto iniziare a capire che cosa intendiamo per eugenetica. Siamo tutti portati subito a pensare che l'eugenetica sia quella del nazismo, cioè cercare di fare la gli ariani alti e biondi. Esatto, ovviamente in medicina questo non è, questo è vietato, non lo può pensare nessuno, né nessuno può mai immaginarsi di fare questa cosa, quindi è assolutamente vietato, a meno che non ci sia qualche delinquente in giro che fa questa cosa, ma è evidente che ha sentito la Roccella che diceva però nell'eterologa ci si avvicina, lei pensa sì, allora io però vorrei fare un attimino, se mi lascia 10 secondi di informazione. Certo. L'eterologa, dunque, in Italia non esiste nessun catalogo su cui scegliere i donatori, non esiste in Europa, esiste solamente negli Stati Uniti, perché ovviamente non è possibile scegliere il donatore, e per quello che riguarda le caratteristiche fenotipiche, quindi gruppo sanguigno, colore degli occhi e dei capelli dei genitori e il colore della pelle, quindi viene fatto questo match con la donatrice o il donatore, sono esclusivamente per garantire una privacy al bambino che nasce. Perché un conto è il bambino che nasce in Brasile di colore e viene con la sua storia in Italia adottato da genitori di Roma, di colore, con la pelle bianca e tutto il resto. Quindi ha una sua storia e quella storia continua, nessuno può negargli il fatto di essere nato in Brasile, di essere spadato portato. Certo. Diversamente invece sarebbe per un bambino di colore o bianco, perché facciamo sempre il famoso distinguo tra questo sia razzismo tra il bianco e il nero, ma anche un bambino di una coppia di colore che nasce non di colore ha problemi a scuola nel riuscire a capire, identificare cosa è successo durante la nascita. Quindi stiamo parlando di tutela della privacy del bambino, che è fondamentale come individuo ed essere umano, per cui lasciamo stare la possibilità di scegliere i belli, i brutti o altro. Mi ricordo, io sono stato in California, c'era all'inizio degli anni 90 la famosa panca che congelava il seme dei premi Nobel, ovviamente è fallita perché ovviamente bisognava al massimo aver congelato il seme dei genitori, del padre del premio Nobel, perché non sempre da un premio Nobel viene un altro premio Nobel. Questa era una battuta certo, per far capire che ovviamente questo non è possibile. Detto questo, quindi l'eterologo lascerei da parte questa cosa. Ovviamente qui stiamo discutendo di un altro problema, sì. Non stiamo discutendo di chi ha diritto o no di vivere. Noi stiamo ragionando, e la Corte Costituzionale l'ha fatto dicendo che la legge 40 era anticostituzionale, per un primo motivo. Il primo, la legge 40 concedeva l'accesso alla fecondazione assistita solamente alle coppie sterili, quindi le coppie sterili avevano per la legge 40 il diritto di poter conoscere lo stato di salute dei propri embrioni. Quindi la Corte Costituzionale è stata chiamata in causa da chi non era sterile, ma aveva un problema, certo, di possibilità di avere bambini malati, di poter accedere alla fecondazione assistita per poter fare quello che fanno quelli, cioè la fecondazione assistita, piuttosto che dover scoprire di avere un bambino malato e purtroppo decide di abortire. Qui entriamo in un altro settore, che è quello, esatto, della legge 194. Esattamente. La legge 194 protegge le donne, è una legge che parla del diritto della donna, per un motivo è tutela la donna, non penso che vogliamo ritornare a discutere la legge 194, riferimento a quello che può essere un suo stato psicofisico in conseguenza della nascita di un bambino che potrebbe dare problemi dal punto di vista economico, quindi da tutti i punti di vista. Quindi sì, sì. Non stiamo discutendo, è vero che erroneamente, secondo me, o comunque non precisamente, è stato detto che c'è una lista delle patologie che possono essere a cosiddette utilizzate. che meritano di vivere o di non vivere, non diciamo sciocchezze. Certo. Giustamente l'onorevole Roccella diceva che sono persone che hanno fibrosi cistica piuttosto che talassemia, che vivono, hanno un handicap, ma possono vivere. Nessuno gli potrà mai dire che con quella patologia loro dovevano essere non impiantati o abortiti. Ci mancherebbe altro, stiamo scherzando, no? Questo penso che, quindi quello sarebbe eugenetica negativa, cioè quello sì che sarebbe. Invece qui sta parlando di un'altra cosa, del diritto di una coppia di poter accedere alla fecondazione assistita per poter formare embrioni, fare l'analisi per poter evitare, in caso di gravidanza da bambino malato, di dover abortire. Io utilizzo il termine dovere perché noi come società civile italiana ci siamo posti il problema di tutelare quelle persone che non si sentono in grado come genitori di poter mettere al mondo un bambino ammalato. Questo già è nella nostra legislazione, è un principio acquisito per così dire, quindi, e si capisce anche perché la Corte, per coerenza, come ci dice Andrea Morini, abbia assunto questa decisione. Secondo me ci vuole altra mezz'ora per riflettere meglio e prendere le vostre telefonate. Purtroppo il nostro tempo è finito. Io sposo questo secondo punto di vista, ma rispetto naturalmente quello di Eugenia Roccella, però quella legge ha perso pezzi perché era mal scritta. Questo è poco da fare. Continuate con Radio 24, appuntamento domani mattina con me alle 8:15 con Alessandro Milan. Attenti a noi due.